tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Confindustria, il neo presidente boccia all'assemblea spostare il fisco sui consumi, ridurre le aliquote sulle riforme, quella della Costituzione a portata di mano. Calenda dice: la politica industriale la facciamo con le imprese. Salvatore Girone tornerà in Italia. La Corte Suprema indiana accoglie la scelta del Tribunale arbitrale e rimanda il Marò in Italia appunto per il 2 di giugno. Firenze, dopo il crollo del Lungarno, si cercano i responsabili, sotto accusa la gestione della pressione idrica, intanto ancora problemi per l'approvvigionamento di acqua in città. A Brindisi, nuova inchiesta sul comune, indagati degli ex assessori, a Como in manette Stefano Bruni, che è stato sindaco per due mandati fino al 2012. Roma, trattativa coi dipendenti del comune, per i vigili si ipotizza un bonus per il numero di multe, per gli sportellisti un bonus da stress. Milano si prepara ad accogliere la finale di Champions League, task force italo-spagnola per la sicurezza, città in festa, iniziative in tutto il centro e non solo. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri messaggi via sms e via whatsapp, c'è il nostro canale telegram, telegram.me/effettogiorno per le anticipazioni della trasmissione, e poi la mappa la trovate andando sul nostro sito www.radio24.it, nella quale il nostro giro per l'Italia è rappresentato anche geograficamente. In apertura dunque l'assemblea di Confindustria. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Situazione economica, rilancio della crescita, politica fiscale, riforme costituzionali, la Brexit e l'Europa nelle 29 pagine della relazione del neo presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Un intervento, quello del leader degli industriali, e la presenza del presidente della Repubblica Mattarella, che fotografa lo stato di salute della nostra economia. È senza dubbio ripartita, ma non è in ripresa, avverte allora Boccia, è una risalita modesta, deludente, che non ci porterà in tempi brevi ai livelli pre-recessione. Cosa fare dunque? Secondo il presidente di Confindustria è necessario partire dal fisco. Sentiamo questo passaggio. Chiediamo di spostare il carico fiscale alleggerendo quello sul lavoro e sulle imprese e aumentando quello sulle cose. Le risorse derivanti dalla revisione delle tax expenditure e della diminuzione dell'evasione devono andare all'abbattimento delle aliquote fiscali. Perciò l'evasione va monitorata attentamente. Il presidente Boccia chiede quindi di potenziare il bonus ricerca, rinnovare il superammortamento sugli investimenti, ma anche il rispetto dei vincoli europei. Ogni violazione delle regole, spiega, verrebbe sanzionata dai mercati. Infine le riforme costituzionali, decideremo il 23 giugno, dice Boccia, ma la posizione di Confindustria è chiara. Sentiamo quale. Le riforme possono inaugurare una grande stagione della responsabilità, nella quale chi governa sceglie e prende decisioni. E il consenso si misura sui risultati. Confindustria si batte fin dal 2010 per superare il bicameralismo perfetto e riformare il titolo quinto della Costituzione. Con soddisfazione, oggi vediamo che questo traguardo è a portata di mano. Non c'è capitalismo moderno senza democrazia e istituzioni moderne, conclude il presidente di Confindustria. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e all'assemblea presente anche il governo nelle persone del ministro Calenda e del ministro Franceschini. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, c'è sintonia tra governo e Confindustria su molti temi e tocca al neo ministro dello sviluppo economico replicare al nuovo presidente degli industriali. Sono d'accordo con Boccia che la crescita della produttività deve essere al centro della nostra azione, dice il ministro, chiedendo un'assunzione di responsabilità condivisa tra imprese e governo. Per Calenda infatti il rilancio dell'economia non può partire da circoli illuminati chiusi nelle stanze di un ministero, sarebbe comico. Poi annuncio la revisione di tutti gli incentivi erogati dal MISE, che produrrà entro settembre un nuovo piano strategico. Sentiamo un passaggio. Ci focalizzeremo su innovazione, internazionalizzazione e crescita dimensionale. Innovazione al centro Industria 4.0. Su questo noi abbiamo fatto un lavoro preliminare. Dalla prossima settimana, Enzo, dobbiamo sederci a un tavolo e lavorarci insieme. Una sfida difficilissima che chiama in causa anche la nostra capacità di organizzarci. Io farò, intendo presentare un piano dettagliato prima dell'estate e le misure nella prossima legge finanziaria. Il tema delle riforme è stato centrale anche nel suo intervento. Il referendum è la battaglia, la partita cruciale per il nostro paese, il resto è benaltrismo, ha detto Calenda, e rilancia sul tema anche il ministro dei beni culturali Franceschini, intervenuto anch'egli in assemblea per sottolineare il legame sempre più stretto tra imprese e cultura. Sentiamo. E davvero mi fa tanta tristezza vedere tante persone in tutti i partiti, anche nel mio, che dopo aver chiesto per anni questa riforma, riduzione del numero dei parlamentari, superamento del bicameralismo, rafforzamento del ruolo del governo, oggi per ragioni soltanto personali di lotta politica sono diventate improvvisamente contrarie. E dal ministro delle Infrastrutture Delrio infine gli auguri al nuovo presidente, con lui lavoreremo bene insieme per favorire la ripresa. E da Roma è tutto. E grazie Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Cambiamo argomento e occupiamoci di Salvatore Girone, che tornerà in Italia. Salvatore Girone rientrerà in Italia già nei prossimi giorni e ci resterà fino a quando il collegio arbitrale costituito presso il Tribunale dell'Aia avrà deciso dove si terrà il processo a carico suo e di Massimiliano Latorre, accusati di aver ucciso due pescatori nel 2012. Una sezione speciale della Corte Suprema indiana questa mattina ha deciso di rendere immediatamente esecutiva la sentenza del Tribunale arbitrale dell'Aia dello scorso 29 aprile, che imponeva per il Marò il ritorno entro 3 mesi. Nelle scorse settimane Roma e Delhi hanno trovato un accordo sulle garanzie che l'Italia dovrà dare per assicurare che, qualora il processo a carico dei due fucilieri di Marina si dovesse tenere in India, Girone tornerà nel paese. Tra le garanzie che l'Italia rispetterà, il ritiro del passaporto e controlli sui suoi movimenti. Numerose le reazioni e i commenti di soddisfazione. E se Renzi conferma l'amicizia per l'India, il suo popolo, il suo governo, per il ministro Gentiloni è stato premiato l'impegno del governo con il sostegno del Parlamento. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono oltre 560 i migranti salvati ieri dalla Marina Militare. Il barcone sul quale si trovavano a 18 miglia dalla costa libica si è rovesciato. Sono 5 le vittime, ma non si sa se ci sia qualcuno che è rimasto sotto al relitto. Valentina Furlanetto ha intervistato Francesco Iavazzo, il comandante della nave bettica che ha effettuato il salvataggio. Ci siamo trovati davanti a questo peschereccio non troppo grande, ma è parso immediatamente evidente che era sovraccarico. Si capiva anche che aveva imbarcato dell'acqua. Purtroppo il peschereccio si è capovolto. Abbiamo buttato a mare praticamente tutto quello che poteva galleggiare, il nostro personale che si è tuffato a mare, i nostri gommoni che continuavano a ripescare gente. Si era mai trovato davanti a una scena di questo tipo? Guardi, di questa magnitudine assolutamente no. Ci sono secondo voi anche dei dispersi? Non possiamo escludere questa cosa a priori, perché solitamente quando questi barconi c'è anche gente nelle aree inferiori, nei punti inferiori. Dopo un po' è affondato, quindi adesso sul fondo del mare il peschereccio. In questo momento dove si trova ancora in mare? Esattamente, arriveremo questo pomeriggio. In che condizioni sono queste persone? Stanno bene, come dicevo abbiamo tanti bambini a bordo e questo ci fa molto piacere. Ed è notizia di pochi istanti fa che c'è stato un altro naufragio di migranti nel canale di Sicilia, a 35 miglia dalle coste libiche. Un barcone con un centinaio di persone a bordo si è rovesciato. Secondo le prime stime della Guardia Costiera, le vittime sarebbero tra le 20 e le 30. Vedremo se sapremo aggiornarvi su questo nel corso della trasmissione. Nel frattempo ci occupiamo di Firenze, della voragine che si è aperta sul Lungarno. È anche qua di pochi istanti la notizia che c'è un'inchiesta aperta con l'ipotesi di reato di crollo colposo, ma noi innanzitutto, prima di andare a parlare di responsabilità, e lo faremo più avanti nel corso della trasmissione, vogliamo fare un punto sulla situazione della città. C'è stato da poco una riunione e un sopralluogo e noi siamo in linea con Giacomo Parenti, che è il direttore generale del Comune di Firenze. Buongiorno e benvenuto, ingegner Parenti. Buongiorno a tutti, rispettatori. Allora, qual è la situazione? Ci dà un quadro al momento? La situazione nella città in questo momento è normale, non ci sono particolari problemi di disagio, se non magari in alcuni palazzi alti in cui forse la pressione dell'acqua non è tornata completamente. Ma non abbiamo più problemi. Anche dal punto di vista della mobilità non esistono problematiche, perché questa è una zona già a traffico limitato e abbiamo sopperito aprendo alcune porte telematiche e quindi consentendo delle itinerari alternativi. Questo dal punto di vista della città. Guardando un po' più in prospettiva, da quel che abbiamo visto almeno dalle immagini, ma poi lei è un ingegnere oltre ad essere il direttore generale del comune, quindi lo saprà meglio di noi, ci sembra di capire che i tempi per rimettere in sesto quel tratto del Lungarno saranno piuttosto lunghi. Guardi, noi stiamo già operando sul cantiere, ci sono già delle imprese che stanno facendo i primi sondaggi proprio per definire l'ipotesi progettuale. Sicuramente non si tratta di un intervento che potrà essere condotto in 10 giorni, ma abbiamo preso come sfida quella di riuscire a completare i lavori entro l'estate. Questo perché le condizioni attuali della spalletta, quindi del muro che è prospiciente l'Arno, non sono tali da poter pensare di mantenerlo in questa situazione, quindi vorremmo completare l'intervento prima del periodo autunnale. Prima del periodo autunnale. La stima iniziale che è stata data ieri sui 5 milioni di danni, più o meno quella la cifra? È un'ipotesi che stiamo affinando, ma sicuramente l'importo ha un intorno sui 5 milioni. Stiamo affinando le soluzioni tecniche, ancora stiamo facendo delle indagini per capire esattamente la consistenza del terreno sottostante e dove iniziare le lavorazioni. È una zona particolare perché Firenze, come sapete, è una zona, una città storica, quindi anche in corrispondenza di dove è venuto il crollo, dove stiamo verificando tutti gli altri passaggi dei sottoservizi e anche altri canali che sono presenti. Quindi intervenire anche con una paratia di micropali va individuato il posizionamento esatto. Per questo stiamo facendo l'indagine anche in questo momento. La ringrazio, grazie a Giacomo Parenti, direttore generale del Comune di Firenze. Poi più avanti torneremo sul tema delle responsabilità di quello che è successo, lo faremo alle 13.35, ci collegheremo col presidente di Publiacqua. Come sapete, tutto nasce dalle tubature dell'acquedotto che passano proprio al lato del Lungarno. La Camera dei Deputati ha approvato ieri in maniera definitiva la legge delega per la riforma del terzo settore, ora il governo dovrà scrivere entro un anno i decreti attuativi, ma cosa c'è dentro? Una cosa è certa, di una riforma il terzo settore sentiva il bisogno da tempo, da decenni se ne parlava, da 2 anni era in cantiere. D'altra parte stiamo parlando di un settore il cui valore economico è stimato in 65 miliardi di euro, circa il 5% del PIL. Fra le innovazioni particolarmente attese nel mondo del no profit, la revisione organica della normativa su volontariato, cooperazione sociale, associazionismo, fondazioni e imprese sociali. Il monitoraggio però non spetterà a un authority come da alcuni auspicato, ma al Ministero del Lavoro. Un'altra grande novità è la nascita attesa del Servizio Civile Universale, che dal 2017 in poi potrà impiegare 100.000 giovani. Le reazioni alla riforma sono in generale positive. Soddisfatto il portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, Pietro Barbieri. Restano critiche alla nascita della Fondazione Italia Sociale, di cui non si sentiva la necessità, secondo il Convol. A ispirarla il consigliere sociale del Premier, Vincenzo Manes, che l'ha definita l'IRI del sociale. La fondazione di diritto privato sarà finanziata dallo Stato con 1 milione di euro. Secondo i 5 Stelle, che denunciano un conflitto di interesse fra Manes, finanziatore di Renzi, e Manes, ispiratore della fondazione, si tratta di un poltronificio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci spostiamo a Parigi. Innanzitutto vi do una notizia che è di pochi istanti fa, che è in corso un blitz per fermare un sospetto jihadista che potrebbe essere armato di coltello, lo riferiscono alcuni quotidiani. Siamo a pochi metri da piazza della Bastiglia, l'uomo si è chiuso nell'appartamento dei genitori al civico 33 di una strada, era stato schedato dopo un soggiorno in Siria, doveva essere trasferito proprio oggi presso un centro psichiatrico su richiesta del suo medico. Quindi sul sospetto di jihadista alziamo un velo di attenzione e di sospetto, quantomeno per il momento. E invece ci colleghiamo con Parigi perché sono ancora in corso le proteste contro la nuova legge sul lavoro e vogliamo capire qual è il quadro della situazione, soprattutto dopo gli stop che ci sono stati alle raffinerie e la difficoltà ad approvvigionarsi di carburante. Lo facciamo con Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Marco, buongiorno, qual è la situazione? Buongiorno a voi. Ma la situazione è ancora in questo momento abbastanza incerta, nel senso che si aspetta l'inizio della manifestazione di Parigi nel pomeriggio alle 2 per capire qual è la reale capacità della CGT, il sindacato vicino al Partito Comunista, il principale oppositore alla legge sulla riforma del mercato del lavoro, per capire appunto quali sono le sue capacità di mobilità e di aumentare la mobilitazione contro la legge e quindi di esercitare una maggiore pressione nei confronti del governo perché la ritiri. Per il momento si registra sul fronte del carburante, delle forniture di carburante, una situazione di lieve miglioramento dovuta anche al fatto che il governo ha inviato la polizia a sbloccare una serie di depositi, lo sciopero nelle centrali nucleari non sta per ora avendo un impatto sulla fornitura regolare di elettricità, ci sono manifestazioni in corso in alcune città francesi, a Perpignan è stata bloccata la linea ferroviaria, a Cherbourg i cantieri navali, a Limoges l'autostrada, a Vitrolles c'è stato un episodio di un camionista che ha forzato un blocco ferendo due manifestanti, ma ripeto, tutta l'attenzione è rivolta alla manifestazione di questo pomeriggio a Parigi. Solo un aspetto di questa protesta per capire qual è il clima anche di tensione, insomma, su questo, in questo momento in Francia, nessun quotidiano nazionale è oggi in edicola, perché il segretario della CGT, Philippe Martinez, aveva chiesto la pubblicazione di un suo intervento contro la legge, i giornali l'hanno rifiutata, immediatamente la CGT ha bloccato l'uscita di tutti i giornali. L'unico quotidiano nazionale in edicola è il quotidiano del Partito Comunista, l'Humanité. Ti ringrazio, grazie a Marco Musanè per questo aggiornamento, vedremo come andrà la manifestazione di Parigi di oggi e sicuramente vi aggiorneremo. Noi adesso ci fermiamo, andremo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro consueto giro per l'Italia. E questa volta abbiamo Dario Ricci in studio, ciao Dario. Ciao Simone, ciao a tutti. Inizieremo da Milano, una città vestita a festa per la finale di Champions, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, alle notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'assemblea di Confindustria, nella quale il neopresidente Boccia dice spostare il fisco sui consumi e ridurre le aliquote, parla anche di riforme, quella della Costituzione è a portata di mano, dice. Abbiamo parlato di Salvatore Girone, il Marocco che tornerà in Italia, abbiamo parlato di Firenze e del crollo dell'Ungarno, abbiamo parlato di immigrazione, tra l'altro le ultime notizie ci parlano di un nuovo naufragio con tra le 20 e le 30 vittime stimate e abbiamo parlato, come avete sentito, degli scioperi in Francia. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo, come si diceva, da Milano. Milano che accoglie la finale di Champions League. Dario Ricci, che quadro abbiamo in questo momento? Beh, è una bellissima festa che è iniziata, la Champions, la Coppa delle Grandi Orecchie è appena sbarcata in città, quindi Simone preparati che poi ci dobbiamo andare a fare anche noi il selfie con la Coppa dopo la diretta. Intanto però andrei subito in centro città, in zona Duomo, Castello Sforzesco, per sentire che clima si respira in diretta col nostro Emiliano Mariotti. Buongiorno Emiliano, raccontaci tutto. Sì, qui in Piazza Duomo non sono ancora arrivati i tifosi delle due squadre, ma sono comunque tanti, tantissimi gli stranieri. Si è appena conclusa la cerimonia di apertura del Champions Festival, grandi protagonisti il coro gospel italiano che ha intonato l'inno della Champions e ovviamente la Coppa delle Grandi Orecchie, attesissima da tutti e scortata fin qui dal Castello Sforzesco dalla banda dei carabinieri. Proprio questo tragitto dal Duomo al Castello per 4 giorni diventerà la Camminata dei Campioni, una passeggiata che si snoda lungo via Mercanti e via Dante, completamente immersa fino a domenica appunto nell'atmosfera della Champions. Ma sentiamo le voci dalla piazza. È molto elettrizzante, io non sapevo di questo evento qui in piazza perché sono qui per lavoro, quindi mi sono trovato questo spettacolo e ho deciso di rimanere a vedere l'arrivo della Coppa. È solo il primo giorno dei 3 del festival, compreso la finale della sera. Vedo parecchio movimento e soprattutto dall'estero. Pur a me non interessando nulla, è comunque una bella cosa, è festosa, poi bene per Milano e benvenga la finale. Tanti, tantissimi gli stranieri, dicevamo, che si sono potuti godere l'esecuzione del coro e hanno potuto fotografare da vicino la coppa che sarà esposta in una teca in mezzo alla piazza fino a sabato sera, quando comunque andrà alla finale, prenderà la strada di Madrid. I primi tifosi di Atletico e Real si attendono per domani sera, quando nei 3 aeroporti milanesi atterreranno i primi voli. Per ora da Piazza Duomo è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Emiliano Mariotti. Insomma, Simone, la festa è cominciata, da domani si entrerà nel vivo anche dell'evento calcistico con le conferenze stampa di Atletico Madrid e Real Madrid. Tra l'altro di Champions riparleremo già alle 14 perché sarà una puntata praticamente monografica, direi, di tutti i convocati, in cui analizzeremo tutti gli aspetti economico, storici, anche perché è la quarta volta che Milano ospita la finale di Champions League. E poi vi invito anche a vedere sul sito del Sole 24 Ore, su sole24ore.com, il dossier che abbiamo preparato proprio per questo grande evento. E visto che siamo in tema di Sole 24 Ore e di aspetti economici, sentiamoci anche il servizio di Maria Luisa Pezzali, che ci racconta quanto vale per Milano questa Champions. 25 milioni di euro. Questo l'impatto economico della finale di Champions League. Un appuntamento che a partire dalle prossime ore richiamerà a Milano, solo per quanto riguarda le tifoserie organizzate, 60.000 presenze. A calcolare l'indotto su Milano e Interland, la Camera di Commercio di Monza e Brianza. Il responsabile progetti speciali, Claudio De Maio. Abbiamo preso in esame ed elaborato i dati per spesa per turista straniero in Italia, quindi abbiamo visto quanto spendevano gli spagnoli in Italia. Quindi siamo arrivati a questo dato, che comprende una serie di voci: gli alloggi, i trasporti, lo shopping, i ristoranti. Pensi che per l'alloggio noi abbiamo calcolato una spesa intorno ai quasi 13 milioni, per i trasporti 1 milione, mentre per lo shopping 5 milioni. I ristoranti invece su 4 milioni e mezzo, e poi c'è un'altra spesa intorno a 1 milione per spese varie. Una nuova conferma dopo il traino di Expo per la stagione d'oro del turismo milanese, anche se la finale tutta spagnola ha in parte sgonfiato l'indotto. Una finale con il Manchester City, vista la maggiore disponibilità economica degli inglesi, avrebbe portato a Milano almeno 1,5 milioni di euro in più. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E continuiamo il nostro giro per l'Italia, in questo caso andando dall'estremo nord all'estremo sud del nostro paese, da Como a Brindisi, per due storie che riguardano inchieste su amministrazioni o ex amministrazioni locali. La Guardia di Finanza di Lecco ha arrestato stamani 5 persone su ordine del GIP di Milano, Maria Cristina Mannocci. Tra queste l'ex sindaco di Como Stefano Bruni, finito in carcere in qualità di intermediario finanziario e procacciatore di clienti. Oltre a Bruni, che ha guidato la città lariana nel decennio compreso tra il 2002 e il 2012, prima con Forza Italia e poi con il PDL, è stato arrestato, sempre per bancarotta, anche Luigi Virgilio, presidente della CDA di AIPA SPA fino al settembre 2015 e poi numero uno di Mazzal Global Solution SPA. L'inchiesta, partita nel marzo del 2014, quando è stato arrestato per peculato il patron di AIPA, Daniele Santucci, riguarda proprio il crack delle due società, in particolare di AIPA SPA, società incaricata da oltre 800 comuni sparsi in tutta Italia di riscuotere i tributi locali. Tra gli arrestati anche un olandese, Johannes Demers, presunto faccendiere che vive a Lugano, Daniele Bizzozzaro, patron dell'Ecco Calcio, e Francesco Pierangeli, che faceva da intermediario finanziario. A Bruni, Demers, Bizzozzaro e Pierangeli viene contestata anche l'accusa di abusivismo finanziario. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Appalti truccati e incarichi agli amici. A 9 giorni dalle amministrative, di nuovo bufera sul comune di Brindisi. Dopo l'arresto dell'ex sindaco Gonzales, accusato di aver intascato tangenti sui rifiuti, poi scarcerato, sotto la lente della magistratura, presunte irregolarità nell'assegnazione di appalti e consulenze nel settore dei lavori pubblici. Un blitz della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di documenti e atti in diversi uffici comunali. Sono 4 gli indagati. Fra questi, Pasquale Luperti, ex assessore all'urbanismo della giunta Gonzales, eletto nel 2012 in quota PD, candidato oggi in una lista civica a sostegno dei moderati. Sul nome di Luperti, figlio di un presunto boss della SCU ucciso negli anni 90, si era consumato nel 2015 lo scontro con Michele Emiliano. L'allora segretario regionale PD ne aveva chiesto la sostituzione in giunta, negata dall'ex sindaco Gonzales. Oltre all'ex assessore sono indagati anche l'ex dirigente del settore ambiente Fabio Licinio, un funzionario comunale e un architetto. Le accuse del PM Daniela Chimenti vanno dalla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente al falso ideologico. Fabrizia Ralla, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. E adesso ci spostiamo a Roma. Ieri lo sciopero dei dipendenti del comune, chiuse decine di scuole, messi fuori servizio una serie di uffici, traffico in tilt. Oggi alle 16 l'incontro a Palazzo Senatorio per discutere del rinnovo del contratto e dei bonus. Saluto ci ha raggiunto al telefono Giancarlo Cosentino, che è segretario della Funzione Pubblica CISL di Roma e del Lazio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Allora, le cose che ci hanno stupito nelle cronache che abbiamo visto sono innanzitutto, anche se in qualche città già esiste, va detto, il bonus multe per i vigili. Si sta discutendo anche di questo, cioè più multe fanno, più soldi ricevono, è così? Assolutamente no. Così mi dispiace, ma non è questo il ragionamento. Allora, intanto, qual è il ragionamento? Non c'è nessun bonus sulle multe. Parliamo della legge dello Stato legislativo 285 del 92, sì, che all'articolo 208 prevede in modo tassativo, direi, che il 50% delle somme che gli enti introitano ai fini anche ovviamente di quelle che sono le sanzioni al codice della strada possono essere, quindi poi c'è una possono, non devono. C'è un punto dove dicono posso, poi a un certo punto quando parlo della polizia locale dicono devono. Vabbè. E gli dico in quale, anche in quale, questa punto è la legge italiana. Per carità, non mi vada sul cavillo e sulla legge. Mi spieghi, no, se ne state discutendo oppure no. E guarda, in che termini? Se lo stiamo discutendo con l'ente se aggiungere o meno 208 al fondo di Roma Capitale, perché in realtà queste quote pari a 8 milioni su un introito di 325 milioni, questo è il quantum, è stato già inserito con l'atto unilaterale dalla ex giunta Marino, sì, quindi non è che noi facciamo, sì, delle richieste, queste sono delle somme che l'amministrazione posta sul bilancio e quindi sul fondo, anche perché deve postare in modo obbligatorio, in quanto sul bilancio ci deve essere una specifica diciamo tabella riassuntiva, e le destina a quelle che sono gli aumenti delle attività di controllo sul allora strato. Mi permette Cosentino, mi scusi, io ho degli ascoltatori in linea che se no non capiscono. Allora, i vigili riceveranno un bonus per numero di contravvenzioni elevate o per numero di contravvenzioni incassate dal comune oppure no? No, assolutamente, okay, no. Vabbè, quindi no, quella è una quota del bilancio che l'amministrazione decide di inserire per eventualmente aumentare, ad esempio, se l'amministrazione volesse aumentare i controlli notturni relativi alla valutazione dei codici dell'alcol o del, diciamo, autovelox, o comunque per chi guida in stato di stupefacenti, sì, l'amministrazione può utilizzare quei fondi per implementare l'attività. Okay, è un implemento. Lei consideri che le città, molte città utilizzano questi fondi anche per fare i cosiddetti contratti estivi. Tutte le città, diciamo, di costa assumono del personale stagionale e lo pagano con quei proventi. Oppure magari ci pagano gli straordinari dei vigili che sono costretti a lavorare di più, insomma, immagino. Altra domanda di aumento. Ok, altra domanda che le voglio fare. Da quel che ho capito si sta ragionando anche su un bonus per gli impiegati di sportello per, aperte virgolette, l'elevato livello di stress relazionale. Allora guardi, questi non sono bonus, sono delle attività che l'amministrazione intende incentivare relativo ad alcune funzioni che ovviamente su cui si chiede un potenziamento. È del tutto naturale che ad esempio un'attività legata, adesso le posso fare un esempio, a quello che è un dipendente che sta su uno sportello sociale, che quindi deve comunque tutti i giorni avere un rapporto con una fascia anche cittadinanza tra virgolette disagiata, per questo tipo di attività front office continuo viene riconosciuto, come dire, un'attività di maggiore implementazione, cioè si tende a riconoscere. Quindi mi scusi, non è in realtà un bonus, ma è un incentivo per spingere le persone a lavorare allo sportello. Allo sportello. No, possiamo aumentare. Comunque sì, aumentare quello che è la possibilità della flessibilità del personale. Ovviamente questi che non sono bonus, sono tutti elementi di produttività, come avviene in qualsiasi azienda pubblica e privata, affinché lì dove l'amministrazione o le aziende private intendono aumentare la produttività, in questo caso di front office, l'azienda investe delle risorse. È come fa la Fiat. Siamo una radio che tendenzialmente l'economia si occupa abbastanza, quindi sia noi che i nostri ascoltatori hanno l'obiettivo e lì mette risorse. Chi vuole risorse deve lavorare sull'obiettivo dell'amministrazione. Abbiamo capito. La ringrazio. Giancarlo Cosentino, segretario della Funzione Pubblica CISL di Roma e del Lazio. E vedremo cosa uscirà dall'incontro che ci sarà oggi alle 16 su questo tema. Ci fermiamo, ci sono i mercati come sempre e poi nella seconda parte della trasmissione torneremo su Firenze, parleremo col presidente di Publiacqua per parlare di questi acquedotti che evidentemente non hanno retto sul Lungarno e poi il sindaco di Giugliano per i mattoni depotenziati, costruiti anche con l'immondizia, con la spazzatura. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli, l'Assemblea di Confindustria, il neopresidente Boccia parla, spostare il fisco sui consumi, ridurre le aliquote sulle riforme, quella della Costituzione è a portata di mano. Il governo presente col ministro delle attività produttive Calenda, la politica industriale la faremo con voi, con le imprese, dice Calenda. Salvatore Girone tornerà in Italia, la Corte Suprema indiana accoglie la scelta del Tribunale arbitrale, tornerà per il 2 giugno il Marò dall'India. C'è stato un nuovo naufragio al largo della Libia, sta intervenendo anche la Guardia Costiera, le vittime sarebbero tra le 20 e le 30. A Firenze, dopo il crollo del Lungarno, si cercano i responsabili, sotto accusa la gestione della pressione idrica. Infine la vicenda del presunto jihadista a Parigi che si era barricato nella casa dei genitori, a quanto pare è stato fermato, una notizia di pochi istanti fa. Alla borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, Filippo Vannoni, presidente di Publiacqua, società di gestione idrica di Firenze. Buongiorno, benvenuto. Buonasera, buongiorno a voi. Buongiorno eccoci, a voi. Eccoci qua. Poco fa il sindaco di Firenze Nardella ha chiesto la testa del vostro amministratore delegato, sostanzialmente. Ha detto valuti le dimissioni. Beh, penso che in questo momento appunto ci sia la necessità di dare delle risposte ai cittadini. Io come presidente della società ho convocato un consiglio di amministrazione straordinario, abbiamo chiesto all'amministratore delegato una spiegazione puntuale, quindi una relazione sull'accaduto. E appena la avremo faremo le nostre considerazioni. Farete le vostre valutazioni. Quindi in che tempi dovrebbe arrivare questa relazione dell'AD? È molto difficile saperlo, dobbiamo capire se possiamo avere la disponibilità dell'area per cominciare a diciamo avere un po' di dati e quindi poter recuperare i tubi e capire che cosa è successo. Per capire effettivamente che cosa ad oggi veramente è difficilissimo dire, si fanno solo ipotesi tantissime e anche le più disparate, ma non sappiamo veramente ancora cosa è successo. Cosa effettivamente sia successo, cioè se sia lo smottamento sia precedente alla rottura del tubo o la rottura del tubo idrogeologica molto complicata, siamo in un punto delicatissimo vicino all'Arno storico, insomma ci sono varie considerazioni da fare, ma ripeto, io fui commercialista, quindi ci affideremo ai tecnici e agli esperti, i quali ci diranno e ci racconteranno come sono andate le cose. Di certo mi sembra di aver capito che le tubazioni sono piuttosto vecchie, no? Queste tubazioni sono vecchie, ma quello era un tubo che non aveva mai dato problemi di nessun tipo, e quindi è un tubo anche molto grosso, è una dorsale dell'acqua, quindi non era un tubo diciamo di allacci alle abitazioni. Quello si è salvato ed è quello che ci ha permesso nel primo pomeriggio dello stesso giorno di restituire l'acqua alle persone che vivono addirittura nella zona rossa. Si sta parlando di un problema di pressione, cioè nel momento nel quale avete chiuso la falla in un tubo, e quello è avvenuto la sera sostanzialmente, l'eccessiva pressione su altre tubazioni avrebbe potuto generare la perdita che poi ha provocato la voragine. No, io non so rispondere a questa domanda, c'è un'indagine in corso della Procura, noi ci siamo messi a disposizione della Procura, forniremo tutta la documentazione che ci richiederanno. Le dico, Vannoni, c'è qualche ascoltatore che da Firenze ci ha scritto, perché ne abbiamo tanti che ci ascoltano a Firenze, dicono ragazzi noi qua paghiamo la bolletta e l'acqua più alta d'Italia, dice, eppure le tubazioni sono in queste condizioni, si sente di rispondere a queste persone? Molto volentieri, il sistema idrico funziona così, la bolletta è in base agli investimenti che vengono fatti, gli investimenti non li certifichiamo noi, li certifica l'autorità idrica toscana. Noi investiamo 50 euro a utente contro una media nazionale di 27 e abbiamo una perdita di acqua nelle tubazioni di poco più del 30% contro una media nazionale del 50%. Quindi in soli dal 2013 che esiste Publiacqua, in solo questo periodo di tempo, questi sono stati i risultati raggiunti. Quindi è vero che si può fare sempre meglio, siamo qui a disposizione, ma è anche vero che ci stiamo impegnando tanto. E la bolletta alta è proprio legata ai tantissimi investimenti che vengono fatti su questo territorio. Ma abbiamo 9.000 chilometri di rete su 46 comuni e quindi se dovessimo sostituirli tutti nell'arco dei 10 anni la bolletta dovrebbe triplicare. La ringrazio, grazie Filippo Vannoni per essere stato con noi, presidente di Publiacqua. Noi, prima di chiudere il nostro viaggio verso le amministrative che oggi ci porta a Torino, poi andiamo direttamente col traffico con Mario Platero e ci risentiamo alla fine per i saluti. Le amministrative di Radio 24. La notizia che Tyler Brulé, fondatore e direttore della rivista Monocle, sulla newsletter del Financial Times abbia indicato Torino come la nuova Berlino è musica per le orecchie di Piero Fassino. Il sindaco uscente si sta impegnando in una tenace campagna elettorale vecchio stile e ovunque snocciola numeri, indica programmi, incassa sostegno, ma anche malumori e critiche. Torino infatti ha visto una crescita fortissima delle presenze turistiche e resta un modello di trasformazione urbana e in Europa è seconda solo ad Amsterdam come città dell'innovazione. Ma la disoccupazione è all'11,9%, la crisi ha raddoppiato il numero dei poveri e la necessità di tagliare il debito della città ha lasciato scarsi margini di azione all'amministrazione. Gli ultimi sondaggi, divulgati prima del silenzio, hanno indicato un chiaro vantaggio di Fassino sulla candidata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino. Tuttavia la vittoria al primo turno è difficile e il ballottaggio appare insidioso. Il record di 17 candidati e 34 liste in lizza rischia infatti di produrre una dispersione di voti che si dovranno ricollocare tra i due finalisti. Ci sono 3 candidati di centrodestra, Osvaldo Napoli, Forza Italia, 2 liste civiche, Alberto Morano, Lega, Fratelli d'Italia, 1 civica e Roberto Rosso, NCDU, DC, Area Popolare e altri. Poi c'è la sinistra di Giorgio Airaudo, ben piazzato nelle previsioni. E anche dalle liste meno in vista qualche sorpresa può arrivare. A conti fatti, tuttavia, l'effetto più rilevante potrebbe giocarlo l'astensione, come sottolinea Maurizio Crosetti di Repubblica. Temo che ci saranno dei grossi vuoti in queste elezioni e che non saranno colmabili con passaggi televisivi, manifesti, interviste. È troppo tardi per fare di nuovo appassionare la gente alla politica. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.